24 mattino con Irene Zerbini. Bentornati insieme, lunedì 3 agosto, 15 minuti in punto, trascorsi dopo le 7, racconteremo il paese, o almeno lo faranno nella rassegna stampa naturalmente i nostri giornalisti. Oggi con noi il caporedattore centrale del Sole 24 Ore, Mauro Meazza. Ci saranno i notiziari in 24 mattino, ma soprattutto cercheremo di raccontare tramite i corrispondenti stranieri il paese come lo vedono gli altri, come siamo visti all'estero. Perché i corrispondenti di stampa estera sono una sorta di specchio bifronte, chiamiamoli così, che raccontano l'Italia a chi poi li deve ricevere dall'altra parte. E dunque è un doppio sforzo il loro: da una parte capire cosa può interessare al proprio pubblico e conoscere un paese nuovo dove si trovano a vivere. Per cominciare questo viaggio, che continuerà per tutta l'estate alle 7:15 del mattino, abbiamo deciso questa mattina di svegliare Mario Sakamoto. Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti. E Mario Sakamoto è il corrispondente in Italia per il maggiore quotidiano sportivo Fuji Sankei Sports. È un gruppo sportivo più che un quotidiano. Per chi scrivi, Mario? Per la Sankei Sport, noi facciamo parte del gruppo Fuji Sankei Communication Group, abbiamo televisioni, radio. E quindi quello che tu racconti viene ripreso sia via video che via audio e poi anche scritto, immagino. Io rappresento la parte scritta dello sport, insomma noi abbiamo una tiratura giornaliera media di 1.300.000 copie. Più che rispettabile. 1.300.000 copie. Da quanti anni sei in Italia, Mario? Sono più di 35 anni. E sei giapponese? Certo. Di nascita? Di nascita di padre e di madre. Completamente giapponese. Eppure vivi in Italia e fai il corrispondente. Naturalmente certo. È un grande sforzo quello di raccontare l'Italia ai giapponesi. In questi 35 anni, per esempio, qual è stato l'evento più difficile o la differenza in mentalità più difficile da rendere a un pubblico giapponese? Nel campo sportivo, far capire la differenza tra uno sportivo latino e uno sportivo giapponese, cioè lo sportivo professionista giapponese raggiunge i risultati passo dopo passo, come la matematica, per noi 1 più 1 fa sempre 2. Invece nel caso dell'europeo esplode ad un certo punto, lo sportivo europeo esplode. Cioè da un risultato mediocre passa a uno step successivo che è un risultato nettamente più evoluto. E questa è una cosa per i giapponesi molto difficile da concepire. E cioè, questa è la cosa maggiore che colpisce. Ci stai dicendo, per esempio, che Nakata, che è arrivato alle glorie internazionali giocando in uno dei campionati più competitivi del mondo, adesso ho citato un calciatore, è arrivato a quel livello progressivamente, cioè non ha certo avuto dei momenti di esplosione, non ha avuto dei momenti in cui ha stupito il suo pubblico. Cioè, spiegati meglio cosa vuol dire per un atleta maturare in maniera progressiva, Mario. Maturare in maniera progressiva vuol dire, ad esempio, che noi non abbiamo casi tipo Luca Toni che esplode a 28 anni a Palermo e poi arriva a fare tutta la carriera che ha fatto. Insomma, da noi 28 anni per noi è un giocatore già in fase quasi calante, perciò anche Nakata a 30 anni si è ritirato. Ecco, è quello il discorso, cioè da noi è tutto frutto di un lavoro progressivo, insomma. E da quindi il percorso è anche più prevedibile? È prevedibile, certo. Ma qual è il primo sport del Giappone? Baseball sempre prima, e poi? E poi abbiamo il calcio dai tempi della J-League, dalla fine anni 80, insomma, che è esploso il calcio, abbiamo importato da voi i Totò Schillaci, che hanno portato il calcio italiano in Giappone, insomma, molti giocatori brasiliani hanno preso cittadinanza giapponese per poter giocare in J-League, insomma. Quindi baseball, calcio con la J-League e il sumo, perché comunque è lo sport nazionale, insomma. Ma quando tu fai corrispondenze dall'Italia in questi giorni, immagino avrai parlato anche dei mondiali di nuoto. Certo, oggi le prime pagine di tutti i quotidiani giapponesi sono piene della notizia che ieri per infarto è morto il nostro presidente del Comitato Olimpico, nonché ex medagliato giapponese, il presidente Hiroshin Furuhashi di 80 anni. È venuto a mancare ieri mattina, lo hanno trovato deceduto nella stanza dell'albergo per un infarto. E questo è quello che sta su tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani giapponesi. E quanto alle competizioni invece in vasca, qual è l'atleta che affascina i giapponesi quest'anno? Beh, quest'anno alla fine gran parte dell'attenzione è andata sulla vostra Federica Pellegrini. C'è poco da dire, ha stupito tutti. E anche in Giappone adesso ha tantissimi fans. Oltretutto il Giappone non ha avuto un grosso risultato, è dodicesima in medagliere con solamente un oro, due argenti e un bronzo, quando voi avete chiuso con 4 ori, un argento e 5 bronzi. Insomma, è inevitabile in questo caso puntare l'attenzione anche sugli altri. E a proposito del rapporto tra Italia e Giappone, c'è stato un caso piuttosto imbarazzante, qui esuliamo dallo sport, ma senza dubbio ti avrà colpito. Stiamo parlando dei 695 euro di conto che si sono visti presentare dei turisti giapponesi per un pranzo truffa in Italia. Certo. E sappiamo anche che c'è stata una sorta di lezione morale da parte dei tuoi connazionali che, invitati a un viaggio gratuito nel nostro paese, hanno risposto al ministero che avanzava questa sorta di risarcimento morale: ci verremo in Italia, preferiamo pagare di tasca nostra per non quando pesare. Quando il ministro Brambilla si ha fatto quell'invito molto carinamente, insomma, ma il problema secondo me è da entrambe le parti, perché il corrispondente del quotidiano che ha scritto questo articolo comunque era appena arrivato, doveva fare un articolo effetto. Ci sveli in retroscena adesso. E no, quindi ci stanno in retroscena, perché comunque è una persona che non si era, ai tempi che ha scritto l'articolo, ancora nemmeno iscritto all'associazione di stampa estera in Italia, cosa fondamentale per un corrispondente straniero. Perciò in stampa estera ancora non risultava questo corrispondente, anche nonostante fosse del più grosso quotidiano giapponese. E comunque uno non può scrivere, anche a livello di corrispondente, articoli troppo spinti su un paese che ancora non conosce da tanto tempo. E allora è stato tutto un po' gonfiata tutta questa storia, a partire anche dal lato italiano, che il vice sindaco di Roma, con delega al turismo, Mauro Cutrofo, ha dichiarato: siamo pronti al confronto con i giornalisti che parlano male dell'Italia, e fin là va bene. Ma poi ha aggiunto: i giapponesi dovrebbero pensare a cosa offre il loro paese a prezzi nettamente superiori al nostro. E lì già ha fatto una grande gaffa, perché il turismo italiano non è più appetibile ai giapponesi, gran parte, specialmente per il cambio tra yen e euro. Non è una questione di truffe o non truffe, perché facciamo conto che un albergo medio a 3 stelle a Roma ormai costa dai 150 ai 200 euro. In Giappone con quella cifra ormai si dorme in un 5 stelle lusso a Tokyo. E questo è un problema che era antecedente a questo pranzo truffa. Allora, ci sarà stata, diciamo così, una leggerezza del corrispondente che l'ha riportato nei toni e nei commenti. L'ha riportato nei toni, toni e nei commenti, però il fatto è accaduto, questo conto è stato presentato, abbiamo visto tutti. Ma tutto il mondo e il paese, alla fine le truffe affiaccato in Giappone, in America, dappertutto, insomma, le storie dei tassi con i prezzi gonfiati risalgono ai tempi delle lire, i giapponesi sono sempre cascati, non penso che sia quello, insomma. E questa notizia che invece da questa parte ha fatto un po' vergognare, ha fatto arrossire qualcuno, immagino, da come tu me la stai contestualizzando, non abbia avuto questo ampio risalto sui giornali giapponesi. Non così grande alla fine, perché questi sono tutti i modi che adesso tutto il mondo cerca di non vedere la crisi globale che ci sta colpendo, perché questo è il risultato della crisi globale e non di un singolo caso di truffa o non truffa. Senti, perché Mario, il nostro potere d'acquisto è calato tantissimo. Comunque in questi anni, a prescindere dai furbi, diciamo così. Mario Sakamoto, quali sono i personaggi, non necessariamente d'attualità, ma i nomi italiani più conosciuti in Giappone? Beh, adesso anche il vostro primo ministro Berlusconi è famoso anche in Giappone, comunque. Berlusconi, dunque, è uno dei personaggi più noti, chiaramente la stampa internazionale se n'è occupata, e fuori dall'ambito politico. E alla fine veniamo fuori ai calciatori. Fuori dall'ambito politico, dunque, gli italiani più celebri sono i calciatori? Sì. Chi sono? Quali in particolare? I Beniamini? Specialmente Del Piero. Del Piero? Sì. Del Piero, oltretutto, ha un manager giapponese. E Del Piero in Giappone ha un seguito incredibile. Del Piero, dai tempi che Hidetoshi Nakata ha giocato alla Roma, Totti, e comunque tutti i grossi calciatori, Inzaghi, sono gente che ha un seguito grandissimo. E mi hai citato dei nomi, penso soprattutto a Del Piero e Totti, che forse riassumono quelle caratteristiche di cui tu parlavi, tipiche, certo, della mentalità giapponese, della continuità. L'uomo bandiera, l'uomo che non cambia squadra, forse è più simile all'atleta, all'eroe dello sport giapponese, per quello che tu mi raccontavi in apertura di questa conversazione. Certo, specialmente un Totti che comunque ha giocato mondiali con una piastra metallica con 12 chiodi dentro, è più una storia da eroe dei fumetti giapponesi che da sportivo dei nostri tempi, insomma. Perciò queste sono le cose che colpiscono più il giapponese. Mario Sakamoto, quando il turista giapponese arriva in Italia, soprattutto, sì, cosa cerca? Ma innanzitutto partiamo dal concetto che il turista orientale è un turista che si muove in massa, è un turista di viaggi di gruppo, perché comunque tra problemi di lingua e tutto. E allora innanzitutto in Italia cerca il buon cibo, i monumenti, ma allo stesso livello lo shopping conveniente, alla fine viene in ricerca di quello. Perciò anche adesso gli outlet delle grosse ditte sono sempre pieni di turisti giapponesi e orientali. La ricerca fondamentale alla fine del turista medio giapponese è lo shopping. E incontri, relazioni, conoscere gli italiani? No, perché comunque è un paese comunque in cui la gente è molto timida, specialmente per lo straniero. Perciò non è difficile trovare un giapponese che chiede un'informazione a un italiano o cose di questo genere. Mario Sakamoto, noi di informazioni invece a te ne abbiamo chieste tante. Come scrivi? In che senso? In videogrammi? In ideogrammi, usando il computer. E quindi non hai l'iPhone perché ti serve, immagino. Ecco, io sono uno dei pochi utenti dell'iPhone per necessità. Per necessità. E possiamo leggere anche i tuoi articoli in inglese? Vengono tradotti? No, solamente in giapponese. Va bene, allora ci fidiamo della tua professionalità sulla parola, non abbiamo modo di verificare. Buona giornata, buon lavoro. Grazie mille. Nel prossimo articolo ti concentrerai su Federica Pellegrini? Certo. Grazie, alla prossima. Tutto. E grazie per questo viaggio che abbiamo fatto sui giornali, come avete sentito, in particolare sportivi del gruppo Fuji Sankei Sports. Il corrispondente in Italia vive a Roma, Mario Sakamoto. Ora il meteo e tra pochissimo la rassegna stampa. 24 mattino. 16 minuti dopo le 8, ancora Irene Zerbini al microfono, e da questa mattina qualche novità nel palinsesto. Non c'è soldi e dintorni per il mese d'agosto, ci occuperemo comunque di attualità. Avremo con noi l'autore di 5 reportage straordinari sull'immigrazione che Radio 24 ha cominciato a trasmettere da oggi alle 6:15 e alle 13:15, Giampaolo Musumeci, tra pochissimo lo sentirete, ci racconterà del suo viaggio. Prima però ci concentriamo sulle pari opportunità, questo termine che ad alcuni sembra svuotato di significato e che in realtà ha ancora molto da raccontare. Cosa succede? Ci saranno delle super multe, secondo i titoli dei giornali, a chi non promuove le donne, cioè i datori di lavoro potranno ricevere delle sanzioni fino a 50.000 euro se non offrono uguali condizioni ai propri dipendenti donna. Ma come si accertano queste discriminazioni? Cercheremo insieme di chiarirlo. Intanto ringrazio Luisa Todini, presidente di Todini Finanziaria, una degli imprenditori che si troverà a dover applicare queste normative recepite dall'Europa. Buongiorno, benvenuta Luisa Todini. Buongiorno a voi. Ringrazio Isabella Rauti, capo del Dipartimento per le Pari Opportunità. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. E ringrazio da Berlino Chiara Saraceno, sociologa, professore di ricerca all'Università di Berlino. Buona giornata. Buongiorno. E vorrei cominciare proprio con lei innanzitutto per chiarire il terreno dal quale partiamo. Cioè, in quali ambiti ancora oggi si discrimina e le donne incontrano difficoltà? Professoressa Saraceno. In realtà ci sono due tipi di discriminazione. Una è molto diretta, che in Italia è ancora molto diffusa, cioè la non assunzione, la non promozione, anche per, come dire, esplicita, o addirittura anche il licenziamento per causa di maternità, che è illegale da un bel pezzo, ma che continua a essere in vigore soprattutto nel centro-nord, con le dimissioni, con le lettere di dimissioni in bianco. Anzi, devo dire che questo governo, che ha eliminato la norma recentissima per cui bisognava, quando si faceva un'assunzione, farlo su un modulo informatico, eccetera eccetera, l'ha eliminato, non si è capito perché, ha di nuovo consentito questa possibilità. Uno dei motivi per cui era stata introdotta questa norma era proprio per rendere più difficile questa discriminazione. Poi ci sono, tutte queste sono discriminazioni illegali, ci sono già, ho visto una dichiarazione della ministra che diceva prima si raccomandava, adesso si obbliga. No, l'Italia dal punto di vista legale aveva un divieto di discriminazione nell'assunzione, nella promozione dalla metà degli anni 50. Il problema è che non vengono applicate. Ci sono poi le discriminazioni indirette, che hanno a che fare con la valorizzazione diversa delle competenze e soprattutto che hanno anche a che fare con la divisione inuguale del lavoro familiare, di cui non si tiene conto e da cui superamento non viene facilitato, ad esempio tramite l'offerta di servizi o anche un'organizzazione del tempo di lavoro più amichevole nei confronti che vada incontro alle donne, non solo alle donne ma anche agli uomini che magari si prendono qualche responsabilità familiare, alla famiglia in generale. E infatti all'estero, per esempio, parlando di esempi concreti già realizzati altrove, Chiara Saraceno, lei vive a Berlino, viaggia in tutta Europa, naturalmente ha un osservatorio privilegiato di queste politiche della paternità e della maternità, includiamo giustamente entrambi i sessi. Cosa si potrebbe fare? Cosa è già stato fatto in pratica? Che funziona? I paesi europei sono molto diversi gli uni dagli altri. L'Italia non è tra i meglio da questo punto di vista, ma neppure tra i peggio. Ci sono politiche dei servizi, innanzitutto, e soprattutto per i servizi per la prima infanzia, in cui l'Italia è lontana anni luce dall'obiettivo che mi si dice di Barcellona, cioè di coprire almeno il 30% dei bambini sotto i 3 anni. Questo è fondamentale per consentire a una donna di poter tornare con tranquillità al lavoro, sapendo che il bambino è accudito bene, perché è un problema di quantità di posti, ma anche di qualità. Ovviamente, perché le due cose che non sempre anche a livello dell'Unione Europea viene sottolineata sufficientemente, e anche di tempo di lavoro. L'altra cosa sono i congedi di maternità. Su questo più o meno tutti i paesi sono uguali, ma su quello su cui sono molto diversi sono la lunghezza e la retribuzione del congedo genitoriale. Dopo la direttiva europea degli anni, non mi ricordo più, la fine degli anni 80, che imponeva a tutti i paesi di aprire il congedo, di dare il congedo genitoriale e di aprirlo anche ai padri, non c'è nessun paese europeo che impedisce ai padri di prendere il congedo, però ci sono paesi che lo incentivano, nel senso che c'è una quota riservata ai padri, per cui se non la prendono la famiglia, il bambino perde quella cosa lì, e paesi che invece lasciano andare. Ma scusi. Soprattutto la questione è quanto viene remunerato. L'Italia dal punto di vista, cioè, riserva, perché sono 6-10 mesi per la coppia, ma nessuno dei due genitori può prenderne più di 6. E se il padre le prende almeno 3, c'è un mese in più, però il salario crolla, paga troppo poco. E invece tutte le esperienze mostrano che ci vogliono due condizioni perché i padri li prendano: che ci sia una quota riservata e che siano pagati bene, altrimenti... Professoressa Saraceno, lei si sta concentrando su un ostacolo grossissimo alla progressione della carriera della donna, cioè la maternità. Quando invece parliamo di discriminazioni d'altro genere, in azienda, come si possono verificare, come si può dimostrare che questo dipendente è stato promosso o meno in base al sesso? Ad esempio, in alcuni paesi ci sono le commissioni più o meno efficienti, ma comunque commissioni interne di pari opportunità, che comprendono sia uomini che donne, che per ogni assunzione o promozione sono tenuti a verificare se a parità di qualità dei candidati non ci sia stato un privilegio per l'uno o per l'altro sesso, di solito il privilegio per uno solo. Maschile, per esempio, ma questo non solo nelle aziende, anche nell'università o così, cioè per proprio commissioni interne dunque, che valutino, sì, che valutano, nel senso che in un certo senso chi prende questa decisione deve giustificarla, dopodiché possono anche girarci attorno, ma già il fatto che uno debba giustificare perché, certo, è un deterrente, diciamo. L'altra cosa è che ci sono alcuni paesi, la Norvegia è noto perché è uscito anche sui giornali poco tempo fa, ha detto che in tutte le aziende di Stato bisognava arrivare entro un certo tempo, almeno in quelle di Stato, a avere una parità di uomini e donne nei consigli di amministrazione. Una quota. Perché il problema soprattutto italiano, ma non solo, è che in alto non ci si arriva mai. Il famoso tetto di cristallo. Grazie alla professoressa Saraceno, che ci ha illustrato la situazione, il punto di partenza. Vediamo dunque con Isabella Rauti, capo del Dipartimento per le Pari Opportunità, quali novità introduce invece ora questo passo avanti, come è stato definito dal ministro Mara Carfagna, che abbiamo cercato ma che era impegnata a quest'ora. Buongiorno, sì, Isabella Rauti. Sono in rappresentanza del ministero. Dunque, intanto vorrei contestualizzare tutto il nostro ragionamento, perché forse chi ascolta magari altrimenti non riesce a ricostruire. Noi stiamo discutendo in virtù del recepimento della direttiva 54 del 2006, la direttiva europea, che a sua volta riunisce atti precedenti in materia e naturalmente li integra con le novità più recenti relative alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea. E questo passaggio è soltanto all'inizio, perché si è trattato di discutere un decreto legislativo in Consiglio dei Ministri, adesso il passaggio successivo è il vaglio della Conferenza Stato-Regioni, poi la trasmissione alle Camere per il parere delle commissioni permanenti e poi il ritorno al Consiglio dei Ministri, quindi per l'aspetto finale, per cui noi non sappiamo alla fine con quale modifiche verrà poi varato questa, recepita la direttiva. Questo è il contesto, certo. Per quanto riguarda le novità, però comunque... c'è già stato un commento come ci trovassimo di fronte a una novità definitiva. Si è detto finalmente ci saranno 50.000 euro datori di lavoro che non offrono uguali condizioni, un passo avanti, e invece l'iter sarà ancora a lungo, ma soprattutto bisognerà vedere come si attueranno alla fine questi principi che sono stati stabiliti a livello europeo e recepiti dall'Italia. Soprattutto quali novità introdurranno, se non ci saranno cambi radicali, certo, che ne cambino la razza. Arrivo ai nodi. L'iter sarà lungo, però voglio dire che comunque abbiamo subito un'accelerazione perché abbiamo introdotto un'accelerazione perché erano circa 3 anni che si attendeva di avviare questo percorso di allineamento. Allora, le novità proposte sono, innanzitutto, si tratta un po' di intervenire sugli attuali organismi di parità esistenti con alcune modifiche e integrazioni, ma entrare in questo dettaglio sarebbe difficile. E allora non facciamolo perché il tempo stringe. L'importante è l'aspetto discriminatorio, che secondo me è veramente l'aspetto qualitativo importante di questo intervento. Innanzitutto la definizione di discriminazione diretta ed indiretta a cui ha accennato la professoressa Saraceno viene qui meglio precisato e definito, e si arriva anche a identificare le forme di tutela, e si arriva anche a meglio identificare, e non è di importanza marginale, il concetto di discriminazioni multiple. Rispetto alla tutela antidiscriminatoria che questa direttiva in realtà sottolinea, non ci sono soltanto aspetti, come posso dire, sanzionatori, che pure hanno la loro importanza, perché noi siamo in presenza di una serie di diritti e di tutele antidiscriminatorie che o non vengono applicati o non vengono rispettati, e in questo caso di violazione spesso in realtà Sono solo sanzioni, che altro c'è? Me lo anticipi e poi la interrompo e ritorneremo insieme tra qualche minuto. Che altro c'è oltre alle sanzioni? Sanzioni monetarie, ma anche fino all'arresto viene proposto per chi non rispetta la tutela di la parità di diritti e la tutela antidiscriminatoria. Abbiamo anche delle forme, come posso dire, in un certo senso di sostegno e di riconoscimento, per esempio degli aspetti legati alla maternità, e questo riguarda evidentemente. Benissimo, continuiamo tra poco, diamo la linea alla regia. Un accenno solo, me lo faccia dire, divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche e complementari collettive. E tra poco daremo naturalmente molti più dettagli. Isabella Rauti, capo del Dipartimento per le Pari Opportunità, le abbiamo tolto il microfono, glielo restituiremo dopo questa pausa. 24 mattino. Torniamo in diretta. Al Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera a uno schema di decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria del Ministero per le Pari Opportunità. Questo risale a venerdì, dunque l'oggi è da riferirsi a venerdì. Questo decreto praticamente sanziona le discriminazioni di retribuzione per le donne e le tutela ulteriormente in ambito di maternità. Ci sono diverse novità. Isabella Rauti, dunque cerchiamo di sintetizzare i 3 nodi, lei ha nominato anche le pensioni. Allora, intanto come prevenzione delle discriminazioni è importante sottolineare che i contratti collettivi potranno prevedere misure specifiche, anche addirittura codici di condotta, linee guida, buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale, con particolare riferimento alle molestie sessuali sul luogo di lavoro. Altro elemento importante è il divieto di discriminazione per ragione connessa al sesso, e anche divieto di discriminazione per un trattamento appunto non legittimo in ragione dello stato di gravidanza, maternità o anche paternità, quindi sono elementi importanti. Un altro, velocemente, la vittimizzazione, cioè chi ha subito una discriminazione o chi comunque fa un'azione per ristabilire i principi di parità non può subire ulteriori atteggiamenti pregiudizievoli o comportamenti pregiudizievoli. E per le discriminazioni a rovescio, perché c'è anche chi invece lamenta che tante volte le donne hanno viceversa carriere folgoranti grazie al loro essere donna, anzi lo stesso ministro alle pari opportunità è al centro di una polemica che ha delle puntate successive che ogni tanto si ripetono sui giornali. Sinceramente credo che al centro dell'attenzione ci siano le attività e le iniziative che questo ministro sta facendo. Però su quanto diceva lei invece sull'aspetto controverso, cioè sulla cosiddetta discriminazione al contrario, questo mi consente di ricordare che la direttiva, qualora passasse così il recepimento, prevede proprio che in realtà è il sesso sottorappresentato a ricevere una tutela, come posso dire, antidiscriminatoria. Quindi non si parla di uomo o donna. Esatto. Si parla del genere sottorappresentato, quindi questa è un'ulteriore. È importante anche questa sottolineatura, infatti. Grazie al capo del Dipartimento per le Pari Opportunità, Isabella Rauti. Vorrei concludere con un impresario, perché poi alla fine saranno le aziende. E ringrazio Luisa Todini, presidente di Todini Finanziario. Buongiorno. Lei si occupa personalmente di assunzioni, di promozioni nella sua azienda? No, non personalmente, siamo un'azienda con 2.800 dipendenti che lavorano in 10 paesi al mondo, quindi non potremmo occuparmene direttamente, però dato che il nostro core business, come si suol dire, sono le costruzioni, quindi un mestiere, le grandi infrastrutture forse tipicamente maschile, anche per questioni di passione e attitudine, noi abbiamo sempre avuto invece una grandissima attenzione per quelle che sono i nostri dipendenti donne. Sono anche orgogliosa di dire che da quando negli ultimi 8 anni mi sono trovata forzatamente a gestire l'azienda, perché mio padre purtroppo è scomparso all'improvviso, a livello soprattutto di dipendenti di sede si sono moltiplicate le donne presenti, e non più soltanto a livello segretariale, ma a livello di amministrazione, di finanze e direzione del personale. Quindi lei ha dichiarato recentemente che una donna è una ricchezza per l'azienda, soprattutto sì, se mai. Quindi andando in controtendenza a coloro che si preoccupano di eventuali gravidanze o preoccupazioni della donna che la terrebbero lontana dai pensieri di scrivania, diciamo così. Le lo dico per esperienza personale, perché io ho la fortuna di essere madre da 6 anni e mi rendo conto che la mia ricchezza e il mio apporto in azienda è aumentato da quando sono madre. Lo dico perché la donna ogni tanto si dice un po' multitasking, no? Quindi capacità di essere multidirezionale e con la capacità di gestire situazioni complesse, credo che questo sia dovuto proprio alla genetica. Cioè noi donne abbiamo la fortuna di poter portare in grembo un essere umano per 9 mesi e continuare a fare tutto, qualsiasi cosa, anzi con più forza. Ma lei l'accetterebbe delle quote? Lei accetterebbe di dover assumere per esempio un 30%, un 40%, un 50% di donne, o vuole mantenere la prerogativa di scegliersi il candidato migliore? Guardi, il genere si discrimina attraverso la bravura, la coscienza e la dedizione da questo punto di vista, quindi poi alla fine è la meritocrazia che vale, però distinguerei un conto è la politica, dove a mio parere nel momento di transizione, e ancora noi siamo nel momento di transizione, le quote sono importanti e necessarie. Ricordiamoci che noi prendiamo sempre ad esempio i paesi del nord Europa, dove c'è una sorta quasi di discriminazione al contrario nei confronti del genere maschile, ma questi paesi sono arrivati a questi numeri di presenza in politica e poi anche nelle aziende per esempio quotate attraverso le quote temporaneamente. È il caso di moltissimi paesi in cui infatti non si è raggiunta una parità totale, ma senza dubbio si sono fatti passi avanti. Ora ci si chiede, naturalmente sono più che condivisibili i principi di queste normative europee, ci si chiede come attuarle, chi effettuerà i controlli perché non rimangano semplicemente una emanazione di principio, così che la donna che è stato in gravidanza si vede allontanata dalla promozione che invece era dietro l'angolo quando annuncia appunto la novità, o la donna che pensa di poter ambire dopo anni di professione a una posizione direttoriale e si vede costantemente preferita al collega maschio, possa poi far valutare le situazioni interne a qualcuno. Si parlava di commissioni interne, secondo lei, che è un imprenditore sul campo dunque, Luisa Todini, sì, come si potrebbe evitare, come si può controllare una situazione di questo genere? Come si può dimostrare una discriminazione? Ovviamente degli organi di controllo interni ci sono, poi mi lasci dire che molto rispetto a quella che è la cultura, l'etica e l'approccio dell'imprenditore e delle persone che lavorano con l'imprenditore, però vi lasci dire una cosa anche di autocritica nei confronti di noi donne, sperimentata anche questa personalmente. 30 secondi purtroppo. Sì, in 30 secondi. A volte sono anche le donne che danno adito a pensare che un pochino se ne approfittano, perché ricordiamo che nel nostro paese, rispetto soprattutto per esempio agli Stati Uniti, la tutela della maternità è molto più forte, molto più elevata rispetto ad altri paesi. E mi faccio fare un esempio banale. Se una donna lavoratrice deve prendere un appuntamento dal pediatra, non deve necessariamente prenderlo alle 11 del mattino come mi è capitato, e quindi chiedere un permesso per l'intera giornata. Ci si può organizzare per venire incontro alle esigenze del bambino, ma anche rispetto alle esigenze aziendali. Dico questo perché ogni tanto ho notato che invece un pochino si tende ad approfittare di questo, e allora dobbiamo un po' fare autocritica tutti quanti, usare al meglio gli strumenti, ma poi venire incontro reciprocamente a quelle che sono le esigenze lavorative, così che poi non si abusi e non si faccia scadere tutta la tutela. Mi lasci dire che io ho impiegato 5 anni ad aprire un asilo aziendale, è stata una grandissima fatica ma un grandissimo successo, però ancora non bastano, non sono sufficienti. La dottoressa Chiara Saracena lo diceva prima, è importante per esempio andare incontro agli asili di condominio, come sta seguendo la dottoressa Rauti insieme al ministro Senza Campagna. Dubbio, grazie. Cioè, bisogna assolutamente creare queste reti. Grazie, grazie a Luisa Todini, a tutte le ospiti, Chiara Saraceno, sociologa e professore di ricerca all'Università di Berlino, al capo del Dipartimento per le Pari Opportunità, Isabella Rauti, e concludiamo questa riflessione, naturalmente contenti di questa novità, bisognerà vedere come verrà attuata, perché il benessere benessere della donna si traduce poi in benessere della famiglia, dei bambini, di tutti coloro che sono coinvolti, e finisce anche per far lavorare meglio l'azienda. In primo piano oggi un'occhiata alle ultimissime notizie: un attacco dei ribelli in Cecenia, così vengono definiti, 5 poliziotti uccisi in un agguato teso loro a Itunkale. L'attacco, messo in atto da guerriglieri che hanno sparato contro il convoglio, è avvenuto sulla strada che da Shatoi porta a Sharoi. Altri 5 poliziotti sono invece rimasti feriti. In primo piano ancora i fischi e le polemiche a Bologna in occasione del ricordo della strage della stazione del 1980. Napolitano fu una stagione di violenza, no, alla follia del terrorismo. E Berlusconi ha dichiarato: la memoria della tragedia è viva. I fischi abbondi, la replica del ministro: così umiliate la celebrazione. E in primo piano ancora una volta tantissime notizie che riguardano in qualche modo il mondo dell'immigrazione. Nel mondo dell'immigrazione un viaggio tradotto in 5 reportage sono stati trasmessi una volta questa mattina alle 6:15, la prima puntata in replica per chi non fosse alzato alle 13:15, continueranno per tutta la settimana in questi orari, e l'autore, il fotoreporter e giornalista Gianpaolo Musumeci, in studio con noi. Benvenuto Gianpaolo. Grazie, buongiorno. Cosa ha motivato questo tuo viaggio? Quali sono le tappe soprattutto? Sì, la motivazione è stata un'esigenza di cercare di capire perché si muovono queste persone e da dove arrivano. È un po' il filo conduttore che ha legato un viaggio. Questi viaggi sono durati 3 anni in realtà, tra una tappa e l'altra, e a spizzichi e bocconi. E ho scelto fra tutti i luoghi visitati 4 luoghi cruciali, che potremmo più che altro definire non luoghi. Non luoghi perché sono 4 luoghi di transito: sono Patrasso in Grecia, che è un porto, Calais, che è un altro porto in Francia di fronte all'Inghilterra, Ceuta e Castelvolturno, che è un luogo italiano tutto particolare. Sono 4 non luoghi perché... E il quinto? Il quinto è in realtà una puntata sulla mafia dei trafficanti, quindi sulla cupola che gestisce il traffico di esseri umani. E 4 non luoghi perché sono luoghi in cui non si dovrebbe rimanere, cioè o si arriva o si parte, tipicamente un porto, e invece trovi situazioni incredibili, per cui trovi ad esempio nella baraccopoli di Patrasso afghani, 600 afghani bloccati lì ad esempio da 2 anni. Una sorta di trappola. E sentiamo un segmento tratto proprio dal reportage a Patrasso. We try again and again and again. It's like Tom and Jerry, that we are Jerry and they are Tom. They are... È come un gioco fra noi e la polizia, come Tom e Jerry. Loro sono il gatto Tom e noi siamo Jerry, il topolino. Loro cercano di prenderci e noi scappiamo. Finora Jerry è stato molto sfortunato, ma arriverà il giorno in cui il topolino sarà fortunato e si tirerà fuori di qui e batterà Tom. Allora sì, puoi chiamarmi Yasser Jerry e ti assicuro che Yasser Jerry ce la farà un giorno. Ne sono certo, perché noi abbiamo la speranza. Jerry ce la farà a prendersi il formaggio. Un formaggio chiamato Europa. E il primo pezzettino si chiama Italia. E questo è solo un assaggio di quello che sentirete alle 13:15. Continueremo con te, Gianpaolo, tra pochissimo. Il traffico. 24 mattino. Spesso di immigrazione parliamo noi, o se ne parla solo in chiave di sicurezza e di problema. Gianpaolo Musumeci ha avuto l'approccio completamente opposto e ci ha regalato, lo sentiremo in questo foto, in questo reportage radiofonico sull'immigrazione, le voci dei protagonisti. Abbiamo sentito qualcuno a Patrasso, da Patrasso. Gianpaolo. Sì, quello che diceva Yassir, il formaggio, l'Europa, noi abbiamo la speranza, fa parte tutto di una mitologia, di un aspetto lirico che c'è nell'immigrazione, nel senso che questi, mentre noi parliamo, centinaia di migliaia di persone stanno cercando di arrivare in Europa, e i subsahariani la chiamano l'aventure, l'avventura, e molti mi hanno detto nei viaggi che ho fatto: io morirò all'avventura. E quindi ci rendiamo conto di come la motivazione sia fortissima. L'altro aspetto fondamentale che ho cercato di mettere in luce è le politiche dell'Europa di chiusura delle frontiere. Chiudiamo una porta, se ne aprirà un'altra. Perché? Perché esiste una mafia dei trafficanti che fa del business e che guadagna su rotte sempre più difficili, sempre più pericolose e sempre più costose. E allora una puntata intera dedicata a questi trafficanti. Sentiamone uno scorcio. L'ultimo esempio è quello della Sardegna. Stanno cominciando ad arrivare dalla Libia su piccoli su barconi da 10-15 persone, perché le altre rotte, perché non si può più arrivare a Lampedusa, quindi bisogna riorganizzarsi velocemente. Io parlerei di imprenditorialità, e le caratteristiche di questi gruppi sono sicuramente la razionalità, ricercare la riduzione del rischio con la massimizzazione del beneficio, in questo caso del guadagno. Poi la capacità di non essere in conflitto tra di loro. C'è una continua ricerca di alleanze strategiche, quindi questa rete fluida si muove velocemente. E queste alleanze strategiche sono molto differenti forse da quello che noi pensiamo. Noi pensiamo che le mafie siano sempre in conflitto l'una contro l'altra, invece non è così. E poi la specializzazione. Quindi la specializzazione sulla rotta, la specializzazione su un tipo di corruzione, la specializzazione su un tipo di mezzo di trasporto, la specializzazione anche solo su un tipo di attività. Alcune di queste mafie fanno solo spostamenti di esseri umani a fine di sfruttamento lavorativo, di sfruttamento sessuale. Questo vuol dire anche sapere controllare le vittime, sapere dov'è il proprio bacino di utenza, sapere come mettere in relazione la domanda e l'offerta. Ecco, se c'è un modello che si può adottare nel descrivere queste mafie, è proprio questo modello di impresa, questo modello organizzativo di gestione criminale secondo modalità imprenditoriali. Di chi era questa voce, Giampaolo Musumeci? Ecco, era Andrea Di Nicola di Transcrime, che è uno studioso, un ricercatore che si occupa proprio di criminalità internazionale. Nel reportage dedicato alla mafia dei trafficanti ho sentito anche i magistrati, cioè quelli che sul campo incontrano grandissime difficoltà a andare a pescare i pesci grossi, perché normalmente si arresta il trafficante libico, banalmente. Ma difficilmente si arriva alla testa. Esatto. Li seguiremo con estremo interesse, cominciano oggi, 3 agosto fino al 7 agosto, questo reportage sull'immigrazione alle 6:15 alle 13:15. Grazie per il tuo lavoro, Giampaolo Musumeci. Grazie a voi. Si conclude una 17 giorni di passione, di emozioni, di gare. Oggi dichiaro chiusi i 13esimi campionati del mondo della FINA. Grazie. Sì, in realtà conclusa ieri, si conclude oggi la possibilità anche di soffermarci, sì, di parlarne. Noi lo facciamo con chi per Radio 24 ha seguito da vicino, dall'inizio alla fine, questi mondiali di nuoto. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quante sono in totale le medaglie, il bottino che è stato assegnato in questi 17 giorni di gara? Allora, in totale abbiamo 65 medaglie d'oro, che tra l'altro si trasformeranno anche in pozzi d'acqua in Africa, Irene, perché grazie alla ONLUS AMREF ogni medaglia porterà alla realizzazione di un pozzo in Kenya, in Tanzania, e ogni pozzo avrà anche il nome dei medagliati, quindi avremo almeno due pozzi col nome di Federica Pellegrini, uno col nome di Alessia Filippi e via dicendo, e poi ci sono stati 43 record del mondo. E si penserà che in Italia vivono solo donne. Ah sì sì, quello è sicuro, perché tutto il nostro medagliere, di fatto, eccezion fatta per il tritone del mare di Ostia, cioè Valerio Cleri, l'eroe della 25 chilometri di fondo, tutto il nostro medagliere è in rosa, di fatto, grazie alle medaglie di Pellegrini, Filippi, Adelizzi, Vitale, Grimaldi, le tuffatrici Cagnotto dalla Pe. Solo Cleri, insomma, rappresenta i maschietti che in questa occasione hanno fatto decisamente meno bene delle loro colleghe. E dunque ci sono state le medaglie, ci sono state le emozioni delle vittorie, c'è stata anche qualche polemica sui costumi, poi ci andiamo tra pochissimo, ma questa 17 giorni con gli occhi puntati sul nuoto è stata una novità anche in termini di emozioni collettive in Italia, che non si può ridurre solo alle medaglie. Ma direi proprio di sì, anche perché malgrado i timori della vigilia, le polemiche, i lavori finiti proprio all'ultimo minuto e anzi in tempo di recupero, perché i primi tuffi di questi mondiali si sono svolti mentre ancora degli operai stavano trapanando gli ultimi infrastrutture, gli ultimi impianti sulle tribune. Beh, insomma, sono stati soprattutto i giochi dell'acqua, e quindi su quel fronte, sul fronte infrastrutture, c'erano molti timori di non arrivare in tempo. Questi mondiali in qualche modo si sono portati a casa. Che voto daresti all'Italia? Ma io direi che alla fine l'esame è superato con un 7, diciamo, tutto sommato, perché tutte le infrastrutture previste per il mondiale sono state concluse. È chiaro che se quegli impianti nel progetto mondiale hanno superato l'esame, rimangono anche in ballo alcune inchieste della magistratura per impianti privati collegati al mondiale che sarebbero che violerebbero esattamente alcune norme, soprattutto in campo archeologico. Dario Ricci, una corsa, perché voglio arrivare anche a dar voce alla protagonista di questi sogni collettivi, l'hai intervistata tu, allora sentiamola insieme, Federica Pellegrini. Io ho dato proprio il massimo, adesso ho questo mese di vacanza meritatissimo, direi, quindi pensiamo solo a quello. Più facile vestire i panni della campionessa o quelli della leader? Oddio, difficile questa domanda. Beh, penso che essere campionessa alla fine vuol dire essere anche leader, no? Io in questi campionati ho dimostrato qualcosa a me stessa che mai avevo dimostrato in passato, quindi io sono contentissima così, nessun ripianto. Beh, è una gioia immensa, insomma, soprattutto aver regalato queste emozioni al mio pubblico, che mi ha riconosciuto anche oggi, comunque quando sono uscita dalla vasca, quindi questo calore non l'avevo mai notato prima. Beh, tutte le gare, non ce n'è una più importante dell'altra, perché 400 sicuramente è un oro molto sofferto dopo tutto quello che ho passato quest'anno. Scendere sotto il muro storico dei 4 minuti, essere riconosciuta la prima donna a farlo, insomma, è una cosa... mi rende orgogliosa. Invece i 200 un tempo così non me lo sarei mai aspettato, quindi devo dire che mi porterò dietro tutti i ricordi di questo mondiale. Non sono interessata a TV e spettacolo, tra l'altro, detto la Pellegrini, lasciando tutti con gli occhi sgranati, visto che questa dichiarazione veniva da una ragazza che lavora sodo e duro. Spariranno questi costumoni al centro di tantissime polemiche, Dario Ricci, con le loro doti galleggianti, ma secondo te, dei primati registrati in questi mondiali, e quanti in realtà non si sarebbero registrati con un abbigliamento diverso? Ma che i costumi spariscano la vedo difficile, perché in realtà la FINA, la Federazione Internazionale, ha stabilito che dal gennaio prossimo si tornerà a super body fatti in solo tessuto, così come era all'origine di quest'era del super body. Ma vogliamo ricordare invece questi hanno un materiale particolare. Sì, infatti quello che stavo appunto dicendo, Irene, che in realtà questi costumi sono fatti in gran parte, se non totalmente, in poliuretano, che è un materiale che comunque in qualche modo favorisce il galleggiamento. Rispetto al punto di ritorno stabilito dalla FINA, però è più facilmente ipotizzabile una soluzione di compromesso, e staremo a vedere quale sarà, perché chiaramente le aziende produttrici farebbero fatica a tornare totalmente indietro. Comunque sembra un po' riduttivo anche attribuire tutti questi record e questi sforzi di campioni, di persone che si allenano seriamente, semplicemente al costume. Qualcuno l'ha definito un doping, è un po' esagerato. Ma Non lo so, non direi che sia esagerato, nel senso che 43 record del mondo e circa 200 nell'ultimo anno minano la credibilità tecnica di questo sport, quindi per poi entrare nell'argomento doping, c'è anche più di un nuotatore, a partire dal nostro Filippo Magnini, che avanza l'ipotesi che costumone sia anche l'alibi più facile per coprire un eventuale ricorso un doping vero, al doping vero. Quindi i problemi in piscina ce ne sono stati e vanno affrontati seriamente. Dario, grazie per questi tuoi racconti sempre circostanziati, sempre pieni di passioni e dettagli. La risposta sui costumoni ce la darà solo il futuro. In caso di marcia indietro vedremo se decadranno anche questi record o rimarranno e si dimostreranno essere lo sforzo degli atleti. 24 mattina ritorna come sempre alle 7:15 da domani, e per ora un saluto da Irene Zerbini.